Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Chiara Appendino, 31 anni, torinese, sposata con una figlia nata da poco, candidata a sindaco di Torino per il Movimento 5 Stelle, bocconiana, appassionata animalista, scelta senza sondaggi online in un'assemblea di attivisti riuniti nel locale Anatra Zoppa. Ama Torino e dice: non mi piace andare fuori. È la bestia nera di Fassino che la chiama la Giovanna d'Arco della moralità e si innervosisce ogni volta che lei interviene in consiglio comunale. La sua è una corsa difficile in una Torino che cerca un nuovo futuro. È un po' come la battaglia di Davide contro Golia, ma i sondaggi per lei crescono ogni giorno. Allora, Appendino, uno scontro tra Davide e Golia? Direi che ci sta, sì. Le piace l'immagine? Assolutamente sì, speriamo che finisca bene. Che qualità si riconosce per battere Fassino Golia? Per battere Fassino Golia ci vogliono tante qualità, sicuramente essere determinata, presente sul territorio e saper ascoltare le persone. Se le pensa sufficienti? Sono importanti, poi ce ne sono tante altre che noi abbiamo. Senta, ma c'è una cosa che proprio non vuol sentire mai dire di se stessa perché si arrabbia molto? Quando mi dicono che sono pignola, che lo sono effettivamente, però mi fa un po' innervosire, lo ammetto. Ah sì, perché? Perché è una cosa che ha un connotato sempre negativo. In realtà sono un po' una persona che studia molto e quindi insomma io penso sia un pregio, però... I sondaggi per ora considerano Fassino un gigante che potrebbe farcela al primo turno. Lei crede ai sondaggi? Ci credo poco, poi perché? Anche viste le europee ultime e le regionali che abbiamo fatto in Piemonte, ci credo poco. E poi è molto presto, non ci sono neanche ancora tutti i candidati. E i suoi di sondaggi per ora, quelli a cui non crede però che ci sono, che numeri gli danno? Ci danno la possibilità di arrivare al ballottaggio e poi giocarsela ovviamente al secondo turno. Comunque noi ci crediamo, al di là dei sondaggi. Senta, Appendino, ma quello che i 5 Stelle hanno fatto sulla legge Cirinnà l'aiuta o no in campagna elettorale? Ma io ho espresso una posizione molto chiara, cioè? Giocando sul nome, per cui io fossi parlamentare voterei ovviamente la legge così com'è, inclusa la stepchild adoption. È stato un tradimento allora la scelta del voto di coscienza? Mi ha stupito quando è uscito il post sul blog e ovviamente ne ho preso atto e adesso vediamo anche come vanno avanti le cose in Parlamento. Quindi è una scelta che non la fa contenta? Avrei preferito ovviamente un voto compatto, però capisco anche le motivazioni che hanno portato al voto di coscienza. Cioè? Perché da quanto ho capito ci sono comunque due o tre persone, senatori, che non sono convinti e questa questione quindi è voluta, visto che è una questione comunque etica così stata interpretata, si è voluto lasciare la libertà a questi due o tre senatori, quanti saranno, di non votare quel pezzetto. A Roma il Movimento è di fronte a un altro problema, la multa di 150.000 euro per chi tradisce il Movimento. A Torino non è così, perché? Ma la multa è per chi tradisce il Movimento, nel senso che per chi non porta avanti il programma e non rispetta ovviamente un impegno etico. Noi in realtà abbiamo un impegno etico, l'avevamo già nel 2011, lo stiamo anche valutando e comunque riteniamo che sia necessario avere degli strumenti per far sì che chi si candida poi porta avanti ovviamente l'impegno che ecco, si... Ecco, però lei ha detto a Torino noi non lo applichiamo, ma chi l'ha deciso che non l'applicate? Noi abbiamo un'assemblea degli attivisti che si riunisce con questa, mi confronto, ci confrontiamo e in questo momento stiamo appunto valutando un impegno etico diverso da quello che ha applicato Roma. Senta, quindi niente contratto di fedeltà a Torino? Non è un contratto di fedeltà, dovremmo valutare comunque delle forme che garantiscano che un cittadino, o meglio un candidato, poi ovviamente porti avanti quello che si è impegnato a fare, ecco, quindi il programma. Ecco, infatti, se vince per governare a Torino, anche lei ha bisogno della sua squadra. Per trovarla ha indetto un bando, cioè una specie di talent. Perché è meglio così? Non è un talent, è una call pubblica. È meglio così perché noi riteniamo che questa città come Torino debba essere riaperta, ci sono tantissimi valori, capacità e talenti e quindi noi pensiamo che non debba esserci Manuele Cencelli, quindi la fedeltà politica e quindi la possibilità a tutti, quelli che vogliono ovviamente impegnarsi, di dedicarsi alla propria città. E la rete lì dov'è? La rete lì non c'è, c'è il candidato sindaco che ovviamente valuta con l'assemblea quali sono le persone ritenute migliori. Quindi la variante torinese della rete? Una variante torinese della rete, sì, diciamola senta. Così. Senta, ma nel bando voi richiedete un impegno etico, cosa vuol dire? L'impegno etico perché sostanzialmente pensiamo che gli assessori si debbano impegnare a rispettare ovviamente il programma con cui ci presentiamo e a garantire una presenza costante nelle istituzioni e tutta una serie di cose che sono garanzia del mandato che verrà esercitato dall'assessore stesso. Senta, ma è vero che da questo concorso che farete, questo non talent, questa call pubblica, Tra gli altri sono esclusi i massoni, è vero? Sì, è vero, perché c'è una clausola esclusi? Sui massoni, ma è una questione anche nazionale, anche per i candidati consiglieri nei comuni è così. Torino è difficile trovare qualcuno che non è massone. No, ci sono tante persone che sono capaci nella città e speriamo di attirarne. In realtà sono già arrivati più di quasi 150 CV in una sola settimana, quindi profili alti. Sì. Ah, senta, e chi ha fatto già politica può candidarsi con lei? Può farlo se non si è candidarsi come assessore o come consigliere. Come assessore, che è quello che abbiamo valutato, non si può presentare se ha partecipato a liste concorrenti al Movimento 5 Stelle a partire dal 2012. Vabbè, prima sì però. Prima sì. Prima sì, insomma, sì. In un certo senso fa campagna acquisti anche lei, quelli che hanno già fatto politica. No. Insomma, un po' di esperienza serve. L'esperienza serve, non deve essere politica. In realtà non è una campagna nei confronti ovviamente di chi ha fatto parte di altre forze politiche, anche perché ci sono degli impegni chiari che sono ascrivibili al Movimento 5 Stelle. Semplicemente abbiamo scelto il 2012 perché è l'anno in cui abbiamo vinto a Parma, è il primo anno in cui siamo stati governativi e quindi ci sembrava quella la data giusta da inserire nel bando d'assessori, diverso sì. Per i consiglieri comunali. Senta, ma è vero che fa prendere decisioni da un suo direttorio personale? Abbiamo già visto che c'è una variante della rete, c'è anche il direttorio personale? No, non c'è un direttorio personale. Ma ci ne sono... parlano molto. Ci sono delle persone che sono state anche presentate all'assemblea che mi danno una mano per ovviamente questioni magari urgenti, però c'è sempre un'assemblea con cui mi confronto. Senta, comunque mi sembra che Torino, i 5 Stelle, hanno un modello organizzativo di scelta delle persone un po' evolutivo rispetto a quello tradizionale. Ma dalle regionali in giù, quindi per i comuni, ogni comune ha autonomia di scelta su quale strumento utilizzare, ad esempio per scegliere il candidato sindaco, e noi abbiamo deciso di utilizzare questo modello. Senta, ma la sindaco Capozzo ha fatto bene o male a restare? Io ero tra le persone che ritenevano che sarebbe dovuta dimettere. Dimettere? Dimettere, perché? Sì. Per una questione di opportunità, non è una questione di garantismo, però il messaggio più forte che si può dare quando ci sono infiltrazioni è quello di dimettersi, di rimettersi al voto, e quindi secondo me si sarebbe dovuta dimettere. E lei lo farebbe? Io lo farei. Senta, ma lei conosce meglio Grillo o Casaleggio? Beh, Grillo mi ha fatto gli auguri quando ovviamente è emersa la mia candidatura a sindaco. Lo conosco per le volte che è venuto a Torino a fare i vari eventi, palchi e piazze. Casaleggio, ho avuto modo di confrontarmi con lui. Sono due persone che entrambe sono importanti per il movimento. Insomma, si sente più figlia di Casaleggio, se non ho capito male. Io mi sento figlia della mia città, devo dire la verità, e della storia del movimento torinese. Cioè, non c'è uno a cui si sente più affine fra i due? Sono persone molto diverse, entrambe importanti. Senta, la cancellazione del nome di Grillo dal simbolo è un passo avanti? Credo che sia una sua scelta, ha sempre detto che l'avrebbe fatto, è un passo avanti nel senso che è coerenza rispetto a quello che ha sempre detto, abbiamo sempre detto. Ma secondo lei per il movimento è un passo avanti? È un passo avanti perché dimostriamo di essere coerenti con quello che abbiamo sempre detto di fare, e quindi questa era stata una cosa che era stata promessa qualche tempo fa ed è stata fatta. Ecco. Senta Crozza su questo passo di Grillo. Vedi ragazzi come mi sono ridotto. Prima facevo la guerra a Bersani, adesso mi incazzo coi piccioni, vedi. Siete ancora ancorati alla rete. Oggi il futuro sono i piccioni. Che cazzo dici? I piccioni. E i piccioni viaggiatori, no? Quelli ti portano la notizia in un attimo. Non fanno un cazzo tutto il giorno, mangiano una belimbolica. Potranno viaggiare, belì. Ma guarda che meraviglia. Non parlano, non vanno su internet, non ti contestano. Sì, sì. Posso decidere tutto io. Scusi, non ha detto che faceva un passo indietro? Ma che cazzo dici? Io sono un megalomane! Mi ci vedi a casa a dare l'acqua ai gerani? Lo vede? Lo vede a casa a dare l'acqua ai gerani? No, direi di no. Magari lo fa, non lo so. Però Crozza è sempre molto simpatico, devo dire, nella sua ironia. Senta, ma la sua esperienza con la politica com'è cominciata? Io ho iniziato nel 2010, quando ci sono state le prime regionali del Movimento 5 Stelle in Piemonte, e in realtà mi hanno fermato a un banchetto di Porta Palazzo, che è una zona particolare ovviamente di Torino, e io non volevo neanche tanto avvicinarmi al banchetto. E poi da lì, folgorata, ho iniziato la mia esperienza. Folgorata da cosa? Dal gruppo, dalle persone che si mettevano a disposizione e poi dai temi. Parlavamo di bilancio della città e a me il bilancio interessa molto. Interessa molto. Ecco, ma essere 5 Stelle per lei esattamente cosa significa? Significa mettersi a disposizione della propria comunità per cercare di renderla migliore. Ma perché bisogna essere 5 Stelle per far quello? Più o meno lo dicono tutti che vogliono fare quello. Ma il Movimento 5 Stelle è un movimento aperto e io non mi sarei mai avvicinata a alcun'altra forza politica se non quella, devo dire. È uno strumento importante a disposizione anche di tanti giovani. Sì, ma perché ha capito che quella era la sua vocazione? Se era mettersi a disposizione degli altri, ci sono tante forme. Beh, arrivo da una storia anch'io in cui le altre forze politiche mi hanno allontanato dalla politica. Il Movimento 5 Stelle è stato in grado di avvicinarmi, perché questa è la grande differenza. Perché da che storia arriva? No, non ho una storia politica, però non facevo politica prima del Movimento 5 Stelle, però sono una di quelle persone che era disgustata da quello che succedeva nell'ambito politico e quindi aver voglia di reinteressarsi della cosa pubblica... Ed era impegnata in qualcosa o no? No, io ero molto presa dagli studi e quindi prima di questa esperienza non ho mai fatto politica. Senta, Davide ha vinto contro Golia perché aveva una fionda miracolosa. Ecco, qual è la sua fionda? L'ascolto e il legame col territorio, essere molto presente a Torino è un programma convincente. Dall'altra parte, diciamo, un sistema che sta scricchiolando. Ecco, e quindi... Ma su che cosa punta che Fassino ha ignorato? Fassino non è stato capace di ascoltare la città, ha investito molto sul centro lasciando indietro le periferie, non è stato in grado di creare un legame empatico. C'è un momento di stasi della nostra città, noi vogliamo riaprire la città al merito che è molto chiusa e in qualche modo offuscata da 20 anni di governo del Partito Democratico. Ecco, Fassino dice di non aver ignorato nulla invece, senta qua. Io penso che noi abbiamo governato bene questi 5 anni, abbiamo un bilancio più che lusinghiero da proporre agli elettori, i cittadini sanno che abbiamo governato e lo abbiamo fatto in condizioni non semplici, se solo si pensa alla crisi economica e sociale di questi anni. Abbiamo continuato a investire, a trasformare la città, a cambiarla. Perché ha torto? Ha torto perché racconta una città che è una piccola parte, l'altra parte non esiste e questo ha creato un legame di sfiducia enorme con la città che Ma non si riconoscono le istituzioni. Ma che piace il bilancio? Il bilancio com'è? Il bilancio della città si porta dietro un macigno di circa 3 miliardi di debito che sta calando, però siamo sempre 3 miliardi e una spesa corrente di 1 miliardo e 3 e comunque investimenti che sono stati in parte non fatti rispetto a quelli che erano stati promessi. Quali erano quelli più importanti? Ce ne sono tanti, però ad esempio una piccola cosa, ce ne sono tanti. Una piccola cosa che mi viene in mente, piccola, è il tema ad esempio delle pedonalizzazioni. Lui aveva detto che avrebbe fatto pedonalizzazioni praticamente in ogni circoscrizione e ad oggi ha fatto una mezza pedonalizzazione via Roma e un'altra che forse dovrebbe partire. E c'è una qualità che riconosce a Fassino però? Fassino studia molto ed è molto preparato, bisogna studia riconoscerglielo. Come lei, quindi due studenti. Diciamo che lui ha studiato forse per qualche anno in più di me, vista la sua età, però comunque sì, no, è una persona che studia, bisogna riconoscerglielo. È il suo difetto peggiore invece di Fassino? Il difetto peggiore di Fassino è che è distaccato come sindaco, ovviamente, che secondo me è totalmente distaccato dalla realtà, è quello che dicevo prima. Quindi... È il suo difetto peggiore? Il mio? Sì. Sono molto diretta e questo ovviamente in Perché certi casi... Perché è un difetto? Dipende ovviamente dai punti di vista. Potrebbe essere anche una qualità, certo. Ma sai che è difficile dire un difetto, eh? No, beh, insomma, tutti ne abbiamo di difetti. Tutti ne abbiamo, però... ma lei me ne dica uno. Sono anche emotiva, che non è... Ancora un difetto? Un difetto difetto? Beh, sì, può essere un difetto, può porre dei limiti. Insomma, un difetto qualità, ho capito. Insomma, i difetti non vengono fuori, i difetti. Ma essere un politico di professione è un limite, eh? Se lo si fa a tempo determinato, no, diventa un limite se lo si fa a tempo indeterminato, quindi perché? Se si è sempre attaccati alla poltrona. Perché la ricerca del consenso per poter essere rieletto può portare a fare decisioni molto sbagliate che non sono nell'interesse dei cittadini. Senta, Fassino la considera la Giovanna d'Arco della Sala Rossa, perché? Perché mi sono battuta molto per la trasparenza dei fondi, in particolare per il tema della cultura, e perché io quando credo in qualcosa mi batto e quindi essendo anche emotiva si capisce che ci credo molto e quindi spero di non fare la fine di Giovanna d'Arco. Ecco. Insomma, quindi quel difetto diventa qualità, va bene. Ma perché lo vuole fare il sindaco di Milano, di Torino? Perché ho questa esperienza da consigliere comunale, ho creato legami con la città, ho fiducia di molte persone ed è un'esperienza stupenda, occuparsi della città è molto bello e quindi vorrei portarla avanti. Senta, ne ho mamma e sindaco, può essere un problema o no? Non è un problema, è ovvio che sono due cose belle, occuparsi della propria famiglia e della città possono essere conciliate grazie al fatto che ho comunque supporto di amici, parenti e famiglia. Senta, ma c'è un modello di donna in politica che l'affascina? In questo momento non mi viene in mente, mi ha affascinato un politico non donna, devo dire, sì. Che è Olivetti, per la sua storia, certo. E per il suo modello di società. C'è un grosso problema, secondo me ci sono poche donne che partecipano in politica e questo è il grosso tema su cui si dovrebbe discutere. Senta, ma come se la immagina Torino di Chiara Appendino? La Torino di Chiara Appendino l'abbiamo definita come una città sicura, sana e solidale. E sicura, sana e solidale è importante perché sicurezza e solidarietà secondo noi vanno insieme, ed è una città che torna a essere una comunità. Io ho descritto un po' il modello nostro di comunità, quindi dove ovviamente ci si ricreano dei legami di fiducia nei confronti delle istituzioni, dove le persone si sentano nella propria città sicuri e questo, tranquilli. E questo è quello che lei vorrebbe che qualificasse la sua Torino? Sì, la mia Torino dovrebbe essere sarà una Torino dove tutti sono fieri di essere torinesi, dove hanno uno spazio e un'opportunità per poter esprimere il proprio potenziale. Senta, la Meloni ha detto: tutti fanno i Superman finché non devono misurarsi con la burocrazia. Ha paura che abbia ragione? Ha ragione in parte, anche se in realtà, conoscendo la macchina amministrativa come ho avuto modo di fare in questi quasi 5 anni, non mi spaventa, anzi ci sono molti interventi da fare e la macchina comunale può essere un può elemento rispondere. Può rispondere, assolutamente sì. Senta, gli ho chiesto perché però qualcuno dice che il Movimento 5 Stelle ha paura di vincere e di governare. Lei non ce l'ha questa paura, mi sembra. Assolutamente no, anzi, non vediamo l'ora di poterlo fare. Senta, Rosa Capozzi ha detto però: credo che il Movimento 5 Stelle dovrebbe fare una bella riflessione se vuole vincere a Roma, Milano, Napoli e Torino. Non ha un po' di ragione, eh? Noi la riflessione l'abbiamo fatta e siamo pronti per governare. Sì, eh? Sì. Ma dov'è che è più probabile che vinca il Movimento, secondo lei? Ma io ovviamente spero che vinca in tutte le grandi città. Vabbè, diciamo anche delle cose ragionevoli. Però sicuramente Torino c'è una buona possibilità, a Roma mi sembra ci sia una buona possibilità. E... se si trova il candidato. Se si trova il candidato, mi sembra che ci siano quasi però. Insomma. Ci siamo quasi? Sì, mi sembra di sì. Lo sa lei? No, io non lo so, non sono neanche residente a Roma, quindi non ho potuto neanche votare. Senta, Casaleggio ha detto che è fondamentale invece vincere a Torino, gliel'ha detto? Io non me l'ha detto, ma so che ci crede, come ci crediamo noi. È fondamentale perché è una città grande e si può dare anche una svolta alla politica nazionale se vinciamo a Torino. Perché? Perché è un capoluogo importante, che ad esempio il presidente Anci è sempre stato, spesso è stato sindaco di Torino, che può avere un'influenza ovviamente sulla politica nazionale, può portare avanti delle battaglie per gli enti locali importanti. Parlando di cose concrete, lei ha detto: a Torino abbiamo il 44% di disoccupazione giovanile, non è tollerabile. Vabbè, d'accordo. E se vince che fa il giorno dopo per quel 44%? La prima proposta che abbiamo lanciato proprio per far tornare al centro il tema della disoccupazione giovanile è un fondo da 5 milioni di euro, costituito subito per tagliando i costi della politica, dello spoil system di Fassino, per inserire i giovani nelle piccole e medie imprese. Quindi valorizzare sia i giovani che le piccole e medie imprese, che sono due elementi importanti della nostra città. Senta, Torino sta celebrando i 10 anni dalle Olimpiadi, che cosa resta di quell'avventura? Sicuramente resta un ricordo che ha portato Torino a essere importante, ma resta anche un grande debito e molte strutture fatiscenti che oggi facciamo difficoltà a riportare in vita, e c'è una situazione di degrado in zone periferiche della città che sono molto difficili da gestire. E allora un'esperienza negativa? Eh? Ci sono pro e contro come tutto. Diciamo che oggi probabilmente candidarsi alle Olimpiadi o fare degli eventi del genere richiede una pianificazione posteriore di quello che si farà degli impianti e degli investimenti, che forse non è stata fatta, anzi non è stata fatta correttamente nel 2006 per le Olimpiadi di Torino. Senta, ma lei dice che bisogna reindustrializzare Torino, ma reindustrializzare Torino è una bellissima cosa da dire, ma insomma da fare? È fattibile, non è più, ovviamente Torino ha un grandissimo, ha tantissime aziende, piccole e medie imprese e comunque un tessuto molto forte industriale, bisogna reindustrializzare. Ma in che direzione? Noi quando parliamo di reindustrializzazione parliamo di una nuova vocazione, quindi ci riferiamo ovviamente alla tecnologia, all'innovazione, e quindi rendere attrattivo il territorio, ad esempio investendo su questioni come banda larga, in modo tale che giovani e imprese che lavorano nei settori della tecnologia siano attratti a venire a Torino e rimanerci soprattutto. Senta, lei ha scritto sulla necessità di avere una nuova concezione della politica in chiave post-ideologica. È bellissimo. Ma in concreto cosa vuol dire? Significa che bisogna andare oltre le ideologie, il Movimento 5 Stelle lo dice chiaramente. Vabbè, oramai ci vanno tutti. Ci vanno tutti per modo di dire, perché poi soprattutto quando in realtà si tratta di governare una città, che è quello che io mi propongo a fare, molte scelte sono questioni amministrative, sono questioni di logica, questioni che semplicemente bisogna avere il coraggio di mettere davanti l'interesse dei cittadini a quelli che magari invece sono interessi di pochi. Ma quindi in un certo senso il fatto che a candidarsi sindaci a Milano, a Roma, cominciano a uscire delle persone che non vengono dai partiti, sono dei professionisti, è un passo avanti o no? In questa linea di insomma deideologizzare. Ovviamente dipende sempre dalle persone, quello non si può sempre generalizzare. Quello è naturale. Diciamo che io penso che sia un bene che persone che magari non hanno neanche fatto politica per tanti anni abbiano voglia di reinteressarsi della cosa pubblica. Cioè, qui a Milano, per esempio, si scontrano. Ma si scontrano due personalità che non hanno come dire, un'origine politica. Beh, sono fortemente però legate alla politica, no? Direi, o no, insomma. Sì. Vabbè. Lei in un libro scrive che non esiste un movimento politico di sinistra che abbia governato o governi in Occidente senza adeguarsi al linguaggio, ai valori, sono parole sue, eh? Sì, sì. Al linguaggio, ai valori del mercato. A quale linguaggio, a quali valori bisognerebbe rifarsi allora? Se non sono quelli del mercato, quali sono? Ah, certo che il mercato ha un suo ruolo. Il problema è che quello che noi denuncio nel libro, che c'è un'abdicazione della politica nei confronti del mercato. La politica deve avere il coraggio di opporsi e comunque fare una battaglia quando ci sono gli interessi dei cittadini che devono prevalere su quelli della moneta o del mercato. In ecco, questo quindi senso. Renzi, quando dice che ci vuole il primato della politica, ha ragione. Non so se la intende come me, però diciamo comunque la politica ha un ruolo importante che deve essere anche di scontro col mercato, gli interessi dei cittadini devono essere tutelati sempre. Senta, ma lei crede che l'incontro tra Papa Francesco e Kirill incida sugli equilibri geopolitici del mondo? Beh, è un atto di riconciliazione importante, penso che questo Papa comunque stia facendo molto in tal senso e quindi è un segnale secondo me positivo. Ma lei ci crede in Dio? Io sì, non sono praticante però. Casaleggio dice che per il Movimento 5 Stelle leader è una parola del passato, sporca e inutile. Davvero può esistere la politica senza i leader? Sì, può esistere. Esiste e il fatto che appunto non si faccia politica per più di tot anni è quello che noi crediamo. Ma leader vuol dire uno che guida però, può farlo anche per pochi anni, ma deve uno che guida ci vuole, no? Dipende cosa intende per leadership. Cioè, se lei fa il sindaco, poi guida, decide, si sceglie i suoi assessori e decide che fare. Insieme. E quindi comanda. Comando nel senso che ovviamente c'è una forma di delega che però si deve ovviamente sempre affiancare con quello che noi intendiamo invece democrazia diretta. Ci sono grandi strumenti comunque di controllo e di condivisione di ma quello che si fa. Controllo e condivisione è importante, ma leadership anche. Guidare è anche importante. Guidare nel senso di ovviamente avere la responsabilità di essere in qualche modo il punto di raccordo, esatto, di una squadra, certo, però la leadership in senso stretto diciamo che ha dei connotati fortemente negativi, quindi va bene, è giusto avere comunque una persona perché lo richiede ovviamente anche la politica che si candida sindaco, ma attorno a questa persona insieme ci sono tanti altri. Questo per forza. Che voto dà il governo Renzi fino ad oggi? 4,5. 4,5? Perché il mezzo? Perché 4 mi sembrava poco significativo. 4,5. 4,5, beh, vuole identificarlo. Senta, ma cosa non le piace proprio di Renzi? Ah, non mi piace tutto di Renzi, nel senso che è una persona che il suo governo in particolare continua a fare promesse, fa propaganda politica e soprattutto non porta avanti atti che sono gli interessi dei cittadini. È una cosa che ha fatto che invece le va una, c'è o no? Per prendere 4,5 qualcosa avrà fatto. Beh, 4,5 è abbastanza basso. Sì, insomma. Però 0 è quando non fai niente. Ma io 0 non lo do a nessuno. Ah no? No, non lo so, perché rientra nel fatto che sono emotiva. Ah, quindi ho capito, 4,5 di incoraggiamento. Incoraggiamento, sì. Senta, lei pensa che il Movimento 5 Stelle possa funzionare meglio in un'ottica nazionale o in un'ottica locale? Visto che voi, per esempio, in Piemonte, a Torino, avete applicato delle metodologie che sono diverse da quelle nazionali. Penso che funzioni sia a livello nazionale che a livello locale, con due scopi diversi che però portano avanti lo stesso obiettivo, quello di cambiare il nostro paese. Quindi importante nazionale, ma anche locale. Senta, Fassino per vincere prova a imbarcare la destra moderata, molti ex di Forza Italia. È una versione sabauda del partito della nazione, quella di Fassino. No? È la protezione del sistema che si deve autoproteggere. Hanno paura che possa vincere una forza politica diversa che possa in qualche modo cambiare gli equilibri. Ecco, a lei per vincere invece serviranno i voti di quella sinistra nemica del partito della nazione. Ha uno slogan per loro? Mi auguro uno slogan no, però sono sicura che quando ci sarà da scegliere il ballottaggio, se sarà sistema contro antisistema, nel senso di innovazione e cambiamento, quindi dovranno decidere loro da che parte stare. Se dicono che rappresenta la versione 2.0 del pensiero liberale piemontese calato in un mondo globale, d'accordo? Non me l'ha ancora detto nessuno, no, devo dire la verità. È la prima volta che me lo sento dire. Bisogna capire cosa si intende per pensiero liberale. Vabbè, ok. Senta, un'ultimissima domanda. È vero che ha detto sono una che quasi non ama uscire da Torino? Intendevo sì, nel senso che io in realtà sono sempre a Torino, mi piace occuparmi della mia città, politicamente mi occupo solo di quello, poi in realtà mi piace anche viaggiare, ho avuto la possibilità di viaggiare molto, però politicamente parlando mi occupo solo di Torino. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mix 24. Beh, allora la giovane Appendino, che titolo facciamo alla sua intervista? È l'Appendino Radical Chic. Radical Chic? No, Mazza sembrava una venuta fuori dal Palasharp. No, Radical Chic. Vabbè, quello è il tuo titolo. Tu? Io con tutta questa etica avrei fatto più cotica, meno etica, però Realpolitik impone e faccio questo titolo. Ah. Vota Appendino, vota Appendino, vota Appendino. A Torino. Vota Antonio. E qui c'è uno che voleva votare per l'Appendino e poi dice: ma sono Massone. Why not? Se vince va bene, cioè non c'è problema. Tanto, come dire, fresca, nel segreto dell'urna il grande architetto dell'universo non vede, quindi può fare. Anzi, vede. Però sai quell'eloquio, no? Io l'unica cosa che penso che deve respirare quando parla, perché non respirava. Però c'è tutta la questione post-ideologica, in realtà non è proprio così, cioè c'è un'ideologia precisa. Beh, però lei è scardinato a Torino, niente rete, niente piattaforme. Perché non sta dove dovrebbe stare. Comunque, cioè, Mario, la sua candidatura naturale, il PD è un partito chiuso, rifà Massimo. Adesso dici tu, lei vuole candidarsi ai 5 Stelle, perché deve stare nel PD? Realpolitik impone. Vabbè, andiamo. Se vuoi fare danno a Renzi, devi votarla. Andiamo. Così, allora sì. Andiamo con la canzone di Pietro. It wasn't hard to love you. Didn't have to try. Wasn't hard to love you. Didn't have to try. Held you for a little while. Allora un uomo e una donna alla stazione oggi. Lui accompagna lei e non si chiede perché, il perché di quell'accompagnare lei, e neppure perché averla avuta per un pochino, mentre tutto intorno a loro, la gente, le strade, i treni perfino, gesticolano per attirare lo sguardo di lei. Ha telefonato Totò stamattina, ha scelto questo brano e lo dedica a Silvana Pampanini. Never asked you why. Held you for a little while. My own. No, solo io posso chiedere una cosa, Pietrangelo. Ma Pietrangelo, tu l'hai fatta su quello che non sa chi accompagna chi, perché l'accompagna al treno. Ma tu pensa che c'è gente che non sa perché ama per tutta la vita quella persona là e poi realizza che era un errore. No, questo è impossibile, perché è amando impossibile per tutta la vita la stessa persona non fa altro che coincidere col segreto del cosmo. E quindi è c'è un mistero. Vabbè, che stamattina all'alba leggevo le cose cosmologiche di Nietzsche, vabbè. Però vabbè. Tu all'alba una cosa devi fare: dormire, pregare. Anche. Pregare che finisca presto. Tutto questo. Vai col break, con la tua bolla. Col break. Whenever I'm down. La Groove Armada, My Friend, senti che bella. E My Friend, erano amici, David e Boris, non so se saranno ancora. Comunque la notizia politica della settimana è questa. Non ci sono dubbi, e cioè il fatto che il sindaco di Londra, Boris Johnson, personaggio molto influente, anzi direi quasi decisivo sotto molti aspetti, almeno nel campo conservatore, nella partita del Brexit, ha deciso che voterà per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Ora questo cambia veramente parecchio. Beh, certo, Cameron comunque ha avuto coraggio. Sì, molto coraggio. Ha messo anche la sua testa sull'Europa, sostanzialmente. Sì, c'ha una ghigliottina che è così, adesso è a metà, vediamo che cosa succede. Naturalmente l'opinione di Johnson è pesante, in tutti i sensi, perché è un personaggio realmente influente, tra l'altro è autore di una biografia molto bella e divertente di Winston Churchill. Sai che dico sempre, no? Io ne conosco un po' di Massimo di Cerci, ogni tanto ne usa qualcuna, magari ha usato questa. Sai, Cerci diceva: meglio fare le notizie che riceverle, meglio essere un attore che un critico. Beh, mi sa che Johnson, sì, mi sa che Johnson ha provato, proverà a scalzare Cameron, perché se Cameron perde va a casa, se va a casa Johnson prende il suo posto, insomma è un takeover sui Tories, dai. Salamino. Non ne capisco niente di calcio, non ne capisco niente, non comprendo però perché ci si accanisca contro Francesco Totti, no, il numero 10 della Roma, lo fanno arrabbiare, lui va in tribuna, la sua squadra comunque vince, però resta l'amarezza di un finale di partita irriguardoso verso chi comunque ha costruito un'epopea di emozioni. E ci ho fatto un ragionamento, è come se il Napoli, come se il Napoli facesse affronto a Maradona. Io non lo so se è mai successa una cosa così, ma non credo. Come se il Catania, per esempio, smettesse, secondo l'insegnamento di Angelo Massimino, il mitico presidente, di comprare l'amalgama o i guanti, e non solo per il portiere ma per tutti, giusto per non far offendere nessuno. Io non ne capisco un H, per come si diceva al tempo in cui ci si incantava davanti alla lavagna con l'H muta. Non so nulla della scienza complicatissima qual è quella del gioco del calcio. Ovviamente io, per conto mio, tengo per tutte le squadre del Regno del Sud. Mamma mia, che cosa, Napoli in testa. E ho sofferto ieri nel sapere che giusto ieri, giusto adesso che voglio dirla su questo eroe maltrattato, il bello Palermo ha preso 5 gol dalla squadra del Roma. Allora, la situazione qual è? Che la Società Sportiva Roma ha comprato un altro centravanti. Si dice così, no? C'ha un altro centravanti al posto di Totti. L'allenatore della squadra è approssimativa come analisi, sta in casino a tutto, però è meraviglioso. Però vai. L'allenatore della squadra, che si chiama Luciano Spalletti, fa spalluccia alla presenza, proprio sulla presenza in campo, di un fuoriclasse come Totti. Allora, ma vederlo andare ieri in tribuna, neppure in panchina ma in tribuna, bersagliato dai flash, quello dei curiosi, dei cronisti, ha avuto il sapore mesto di un crucifige dove al posto dei chiodi ci sono gli anni, ovvero l'età della pensione. Io non ne capisco niente di calcio, però di Italia e di italiani sì. E la fretta che hanno di sfraggiare uomini e cose, questi italiani e quest'Italia, uomini e cose che vanno giù di moda, è la cifra di una volgarità consolidata nel DNA. Questa è l'Italia dei caporali che non ha mai capito gli uomini, figurarsi i capitani. Capitano, che hai negli occhi il tuo nobile destino, pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino? Capitano, che hai trovato? Io mi associo da juventino. No, io ho una domanda. Pietrangelo, ma non è che sei laziale? No, no, io te l'ho detto, da Napoli in giù. E allora è laziale? Da Napoli in giù. Ha detto una cosa giusta, viva Totti. No, perché ha fatto viva una Totti, cosa. Viva Totti. Vabbè, vai col flop. Vai. Your position. 33, 5-1, 8-3, 32. The Golden Bear for best film goes to Fuoco Mare, Fire at Sea, Gianfranco Rosi. Ecco, era Mary Streep che annunciava la vittoria dell'Orso d'Oro alla 60ª edizione della Berlinale al film documentario Fuoco a Mare di Gianfranco Rosi, prodotto da Rai Cinema. Ecco, l'unico film italiano in gara, il documentario è stato girato a Lampedusa nel corso di un anno intero, racconta la vita di alcuni abitanti dell'isola insieme al dramma dei migranti in arrivo verso il nostro paese. Un riconoscimento importante, quello di Berlino, non solo per il cinema italiano, un film che mette insieme arte e politica, tante sfumature, un film urgente, visionario e necessario, secondo il verdetto della giuria. Rosi ha dedicato il suo lavoro ai lampedusani che lo hanno accolto, che hanno accolto i migranti. È un popolo di pescatori, ha spiegato Rosi, e i pescatori accolgono tutto ciò che arriva dal mare. Questa è una lezione che dobbiamo imparare. Poi sull'Europa, alle prese con la discussione su regole, limiti da fissare in materia di migranti, ha aggiunto: le barriere non hanno mai funzionato, specialmente quelle mentali. Spero che questo film aiuti ad abbattere queste barriere. Ce l'auguriamo anche noi, un film bellissimo da vedere. E adesso vi raccontiamo una nuova storia di speranza, di innovazione, per mostrare un lato meno raccontato del paese. Una storia che, come sempre, arriva dalla rete di Italia che cambia. Alessandra Fiori ha intervistato un altro dei nostri agenti del cambiamento. Dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Filippo Bozzotti è cofondatore con Ben Keen di Tribe Wanted, una cooperativa internazionale che sviluppa comunità ecosostenibili. Ecco Filippo, ma cos'è una comunità ecosostenibile? Ma una comunità ecosostenibile per noi è un posto dove possiamo vivere in un modo alternativo, dove cercare di portare avanti delle soluzioni e non solo promuovere i problemi, per quello che riguarda uno stile di vita appunto più basato sulle energie rinnovabili, sul cibo locale, sulla fitodepurazione, sulla bioedilizia, cercare di essere il più locale possibile in tutte queste cose. Ma Tribe Wanted si definisce una tribù che si riunisce su internet, ne fanno parte 12.000 membri ed è gestita da 3.000 soci. In che modo? Sì, noi siamo nati come online community al tempo del crowdfunding nel 2007, però la cosa forte che ha fatto Tribe Wanted è che abbiamo tolto l'online e siamo passati all'offline. La gente si iscrive, diventa membro di Tribe Wanted su tribewanted.com, ma poi possono sviluppare insieme delle vere comunità dove possono andare a passare una settimana di vacanza o anche qualche mese. Siamo partiti su un progetto alle isole Figi, sull'isola di Vorovoro, dopodiché siamo passati in Sierra Leone e il terzo progetto l'abbiamo sviluppato a Monestevole, in Umbria. Ecco, in Italia appunto c'è la comunità di Monestevole. Che cosa succede a Monestevole? Cosa fate? Ma allora, la gente può venire e partecipare quanto vuole all'attività. È una vacanza alternativa, dunque si possono venire a sporcare le mani dalla permacultura, agli animali, alla cucina. Ma quanto costa una vacanza a Monestevole? Ma una vacanza parte da 500 euro alla settimana, tutto incluso, colazione, pranzo, cena, vino nella casa e tutte le attività. Però offriamo anche tanti pacchetti, per esempio adesso per il mese di aprile facciamo una full immersion, un'immersione completa, diciamo, nella vita di una comunità ecosostenibile, dove a partire da 1200 euro al mese puoi partecipare a tutte le attività e vivere come un locale e imparare anche tante cose, per poi portarti la casa con te e cercare di cambiare un pochettino il tuo stile di vita. Ma queste comunità riescono a sostenersi poi con i soli proventi del turismo? Sì, diciamo che con Tribe Wanted non è a scopo di lucro, ma abbiamo tre metriche della sostenibilità sociale, ambientale ed economico. Dunque per ogni decisione che prendiamo cerchiamo di basarla su questi parametri. Con 12.000 Tribe Members, membri della cooperativa di Tribe Wanted, riusciamo a coprire tutti i nostri costi e a reinvestire tutti i ricavi nelle comunità. Non solo in Umbria, ma anche all'ultimo progetto, per esempio, in Papua Nuova Guinea. Ti sei definito un sognatore concreto. Perché? Penso che ognuno deve cercare di creare il mondo che vuole. Sono tornato in Italia 3 anni fa, tutti mi dicevano di non tornare, c'era questa cosiddetta crisi, la burocrazia, la corruzione, molto cinismo. E invece siamo tornati in cima alla nostra collina, abbiamo creato il mondo che volevamo, abbiamo l'energia che ci serve, l'acqua che ci serve, il cibo che ci serve. Ovviamente l'obiettivo è di essere un esempio anche per altre persone che vengono a trovarci. Miriamo sempre molto in alto per poi magari arrivare a metà strada, però comunque cercare di essere il cambiamento che uno vuole vedere nel mondo, no? Grazie Filippo Bozzotti. Per altre informazioni su Tribe Wanted e sulle altre realtà di Italia che cambia, www.italiachecambia.org. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, c'hai una... Sì, c'è una bolla, ma prima della bolla c'è Renzi che ha lanciato sulla sua pagina Facebook un referendum per sapere dai suoi, diciamo, follower a questo punto qual è la prossima riforma che bisogna fare. Cioè stile Casaleggio. E la vita è tutta un like, a quanto pare, a questo punto. Cioè chiede, no? Oramai mi chiede. Piace, mi preferisce piace. Chiedere. Sì, no, tra un po' non votiamo più, facciamo direttamente il mi piace, il like. È fatta. È fatta, e via. Intanto che bolla facciamo? Facciamo un family affair, dai. bel pezzo, eh? Mary J. Blige, bravissima cantante. Sentiamo un altro un po', vai. E la fine dei Bush, perché le sì, elezioni sono passate così, no? Nella cronaca, diciamo, nostra, italiana, come la vittoria di Trump, certamente, ma in realtà è la fine di una grande dinastia della politica americana, che è quella dei Bush. Quindi, curiosamente, tutti i commentatori dicono che Jeb era il più intelligente dei tre. Perché era quello politicamente più gentile, corretto, piaceva ai giornali. Ma piacere ai giornali non significa vincere. Ma l'intelligenza, si sa, è controproducente in democrazia. Altrimenti. Quindi, invece, quello che non piace ai giornali, sta vincendo alla grande. Parliamo di Trump. Quella che non piace alle femministe, per esempio, c'è stato un durissimo articolo sul New York Times l'altro ieri, c'era Hillary Clinton, vince pure lei in Nevada e molti davano Bernie Sanders come, no, la testa a testa, invece ha vinto anche con, insomma, bene. Vabbè, stanno combattendo i Clinton. Stanno combattendo. La cosa interessante è che cosa succede adesso con Trump, perché Trump è là e conduce. E c'è un super martedì che sarà un altro indicatore, a quel punto devono decidere che cosa fare. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, gli sms, pubblicità. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti, vi presenta Mix 24. La battaglia di Verdun, che dura 4-5 mesi del 1916, è un massacro, un tritacarne, come venne detto allora, da entrambe le parti. La battaglia di Verdun fu la battaglia più spaventosa di quella guerra. Come mai è rimasta così vivida nella memoria e nell'immaginazione dei francesi da far sbiadire tutte le altre? Perché è stata la battaglia francese per antonomasia. Così Giorgio Rochat e Jean-Jacques Becker su Verdun. Il 21 febbraio del 1916, un secolo fa, inizia la battaglia simbolo della Prima Guerra Mondiale. Il ne passeront pas, non passeranno, è il famoso incitamento del generale Pétain alle sue truppe. Tedeschi e francesi mandano i loro eserciti al massacro per conquistare una vittoria che non cambia le sorti della guerra. La battaglia durerà 6 mesi e costerà milioni di morti. Eserciti di massa, Verdun, eroismo e disobbedienza, orrore e insensatezza. Qui a Mix 24, dopo il giornale radio. Mario, ancora una bolla? Sì, abbiamo anche una canzone. Beh, questo è un hit tra le più ballate, non si presenta neppure. Ah, il regista sta andando a scatenare, hai visto? È più ballata. Dai, è bello, bello. Ballano. Bella. E no, solo per dirti molto rapido, Giovanni, che c'è un effetto Boris. Ovviamente Johnson, a riprova che quello che cerchiamo di dare spiegare ai nostri ascoltatori, di spiegare nei limiti delle nostre possibilità, in realtà sono fatti che hanno un impatto immediato. E la sterlina ha subito il più grosso ribasso da un anno a questa parte, l'1.5%, e si scommette sul Brexit sostanzialmente. Beh, anche se la City scommette sull'Europa invece. Sì, però ovviamente la City dice, beh, se Johnson che pesa così tanto si schiera per il no, wow, che cosa succede? Ok, cominciamo a scontare sul mercato l'effetto di una decisione del genere. Sì, intanto, una durissima lotta. Intanto adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA, 2 febbraio 2016. L'utilizzo di farmaci dopo la data di scadenza. Quando consumiamo una pillola che ci è stata prescritta, qualche volta ci capita di andare a vedere la data di scadenza che c'è sulla confezione della pillola stessa. E magari qualche volta è anche capitato che uno si accorge di aver consumato una pillola che era scaduta. Allora i ricercatori sono andati a vedere cosa succede a le pillole scadute e quali sono i problemi che possono causare e quali sono le condizioni che danneggiano maggiormente questi farmaci. Allora, il problema è abbastanza semplice perché non ci sono dati su tossicità data da ingestione, iniezione o applicazione topica di una pillola che è scaduta, ma questo succede perché questi studi sostanzialmente non sono stati fatti, quindi non è che questo vuol dire che uno può assumere tranquillamente una pillola dopo la data di scadenza. Però il problema è la stabilità del farmaco, quanto rimane stabile dopo la data di scadenza, e i ricercatori hanno potuto stabilire che diciamo che il 90% dei farmaci rimangono stabili fino a 4 anni dopo la data di scadenza. Certamente ci sono alcune condizioni, quali la temperatura elevata o l'umidità, che possono peggiorare la stabilità e quindi danneggiare il farmaco e provocare eventualmente danni. Lo stesso, il farmaco, se in soluzione o in sospensione, altrettanto è più facilmente deperibile, ma lì ci si ne accorge più facilmente perché magari cambia il colore o vedete la precipitazione del composto all'interno del liquido. Insomma, la conclusione è quella che può capitare di assumere un farmaco oltre la data di scadenza, non è che uno debba mettersi le mani nei capelli. Certamente è meglio non farlo, o al contrario, se proprio non c'hai nessun'altra soluzione e sei in una landa desolata e hai il tuo farmaco salvavita che è scaduto, beh, in fondo forse puoi anche prenderlo. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi questo fine settimana ha visto nascere sopra due tazze di caffè fatto male tutto ciò che conta e conterà. Gino Paoli, In un caffè. In un caffè, coi camerieri maleducati, per la prima volta noi ci siamo amati. In un caffè, senza neppure portacenere, t'ho sentita tremare e fremere per me. Io non vedevo i tuoi occhi, non li vedevo, ero piuttosto annoiato e non ti guardavo. Eppure là, sopra due tazze di caffè fatto male, è nato tutto quel che conta per noi, per te e per me.